Io mi trovo qui a Mostar da qualche giorno a seguire questo evento importante da un punto di vista sia concreto che simbolico della restaurazione e dell'inaugurazione del cosiddetto nuovo vecchio ponte di Mostar, e anche per seguire un'altra iniziativa importante che avviene nel contesto di queste giornate, che è il seminario Acqua Sorgente di Pace, che porterà verosimilmente alla nascita di un comitato bosniaco per il contratto mondiale sull'acqua, quindi un comitato che qua in Bosnia e Erzegovina seguirà la campagna che viene portata avanti a livello internazionale dal contratto mondiale sull'acqua. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, si tratta di una giornata che ha le caratteristiche di una rappresentazione anche da un punto di vista mediatico della fine di una fase in Bosnia e Erzegovina, della fine della fase del post-conflitto. Oggi 27 luglio 2004 viene aperto il ponte, lo Stari Most, che era stato distrutto 11 anni fa dall'artiglieria croata il 9 novembre del 1993. Sicuramente si tratta di un evento simbolicamente importantissimo per la rilevanza che appunto questo monumento ha avuto nella storia bosniaca e nella storia europea, per le implicazioni simboliche. Si tratta comunque, almeno a quanto appare un po' a noi qui visitatori a Mostar in questi giorni, in qualche modo di una forzatura, nel senso che da un certo punto di vista le ferite della guerra qui a Mostar sono ancora ben evidenti, e anche in qualche modo la diffidenza tra chi appunto la guerra ha diviso. È un discorso che vale un po' più in generale anche per la Bosnia Erzegovina, per il paese oggi, il paese impegnato comunque in una difficile fase di transizione che dal punto di vista economico significa oggi una cifra del 44% di disoccupati, significa ad esempio il fatto che la produzione nel paese non è ancora ripartita, la Bosnia è totalmente dipendente dall'estero anche in settori critici come ad esempio quello quello alimentare. La Bosnia non ha praticamente la sovranità alimentare, dovendo dipendere per i due terzi dalle importazioni dall'estero, per cui insomma vari elementi concordano a ritenere che questo monumento, l'inaugurazione di questo monumento è sì un primo passo o comunque un passo in avanti importante anche simbolicamente, ma non può essere contrabbandato per la chiusura di una fase. I problemi sono ancora ben presenti e sono ancora lì da affrontare.